Ed ora andiamo al bar con Sara e Lorenzo in Piazza della Repubblica. Ascolti le parole e le espressioni nuove e le ripeta dopo la seconda volta. In centro. In the center. In centro. Turisti stranieri. Foreign tourists. Turisti stranieri. Diversi. Different, plural. Diversi. Al banco. At the bar. Al banco. Al tavolo. At the table. Al tavolo. Ed ora ascolti di nuovo queste espressioni. Turisti stranieri. Al tavolo. Diversi. Al banco. In centro. In this dialogue, Sara and Lorenzo are sitting at a table in the square. Sì, sono seduti a un tavolo nella piazza. Ascolti. Seduti in Piazza della Repubblica. Oh, the menu's also in English. Sì, è in inglese perché siamo in centro e ci sono moltissimi turisti stranieri. There are two different prices on the menu. Ci sono due prezzi diversi. Ci sono due prezzi diversi. Perché? I prezzi al banco e al tavolo. Ah, al banco, at the bar, al tavolo, at the table. Esatto. Al tavolo è più caro. Sì, molto più caro.